Uno, naturalmente sto parlando qui del teatro vivo, vivente, che il cuore gli batte. Può anche prendere ritmo e respiro da un testo morto, tale teatro. Può far suonare nell'aria parole che hanno millenni, parole che hanno la pesantezza dei millenni, la polvere dei millenni sopra di loro, dentro di loro. Ma se il cuore gli batte, pulsante come un animale a sangue caldo, quel teatro di marmi e statue è vivo, vivente. Continua a sussurrare, a parlarci e noi a parlare con lui. Io qui sto parlando perché il teatro mi parla, parla attraverso di me, attraverso la mia povera carne, la mia umile carne, la mia carne da niente, attraverso la lunga teoria di chi mi precede, di chi è venuto prima e di chi arriverà dopo, di chi corre sulla pista parallela alla mia, di chi suda su un palco mentre sono qui a parlare. 2. Sto parlando del teatro come di un'arte bambina. Cosa sono 25 secoli se confrontati con l'origine dell'umanità? La rosa ha 25 milioni di anni. 3. Sto parlando qui del teatro come luogo dell'invisibile, della rivelazione, dell'accecamento. Se uso le maiuscole è solo per chiarezza. 4. Parlo del teatro come luogo del visibile, del tangibile, del corpo che sente, sensuale. 5. Sto parlando del luogo dove la gioia balbetta sopra le macerie, dove gli assetati trovano da bere, gli affamati pane per i loro denti, dove i miracoli sono ancora possibili, pensabili, dove la primavera è la grande, eterna questione e riguarda l'epifania del Dio del pane e del vino. Brot und Wein. 6. Sia detto tra parentesi, talvolta quel desiderio di bere è anche solo la sorpresa di trovarci a pensare che abbiamo ancora sete, che proviamo la strana, inattuale sensazione di avere sete, lo stupore di ritrovarci ancora ad avere sete e fame, la meraviglia nello scoprire che ancora siamo in grado di provare un desiderio autentico. Autentico? Sono ancora in grado di pronunciare questa parola? E cosa significa questa possibilità? Significa che sono ancora vivo? Fine della parentesi. 7. Ancora e ancora in italiano sono la stessa parola, slitta solo l'accento. L'avverbio che definisce la durata e la permanenza nel tempo, il sostantivo che definisce l'oggetto di ferro che tiene ben salda in porto la nave. 8. Parlo qui del teatro come del luogo della buona notizia. Qual è questa buona notizia? Semplice, che si può fare arte anche senza dover per forza fare cassetta, che è ancora possibile, che non occorre distrarsi a pensare a quella, all'arpagoniana, tetra, micidiale cassetta, che, attenzione, il far quadrare i conti per tenere in piedi la compagnia, come sapevano i comici dell'arte e Molière, non è quella distrazione di cui parlo. Quella distrazione, quell'essere spostati mentalmente sulla cassetta, è altro. È la sciagura arpagoniana dell'artista moderno. È la sua resa all'onnipotenza del mercato. È il suo cedimento interiore all'onnipotenza del mercato, al farsi prodotto, sempre e comunque e a qualsiasi prezzo. E anche lo scandalo va bene, anzi, è merce ricercata. Il mercato adora lo scandalo, indice di visibilità. Apparire tutti i giorni sul giornale, in televisione, nello sciame della rete, Questo richiede il mercato. La buona notizia non si preoccupa di dare scandalo per fare accorrere i media. Il suo scandalo è di non essere scandalosa. La buona notizia è che quel teatro di cui parlo non accetta il comandamento dello scandalo che fa cassetta, dello scandalo come trovata. 9. Il teatro come luogo del necessario, dell'utile, come un ago per cucire. 10. Il teatro come luogo dell'inutile, del gratuito, gratis et amore Dei, come una preghiera. 11. Il teatro come luogo dell'eresia, parola che etimologicamente conserva in sé un'altra parola, meno ambigua, la sua fonte, e la fa brillare, scelta. 12. Il teatro come luogo della ortodossia, parola certo più scomoda della prima, che etimologicamente significa retta opinione. Ma non è forse questo che conta nel polverone delle opinioni e dei bla bla bla e dei cinguettii che ci assediano, accecati da tanto fumo? Non è forse questo il miraggio per cui patire, quello di arrivare passo dopo passo, nell'errare, errore dopo errore, alla retta opinione? Io ci tengo alla retta opinione, lo dico e non me ne vergogno. So bene che non ci arriverò mai, ma come posso fare a non anelare a quella? Come una cerva anela ai corsi delle acque. 13. Il teatro come luogo in cui si ride della contrapposizione di queste parole. Ortodossia, eresia. Parole muro sulle quali si sono scannati e si scanneranno ancora gli esseri umani, chissà per quanto. Il teatro come luogo in cui si irride agli scannatoi, alla retorica dei macelli. La verità se ne ride degli out-out e dei confini. È deposito, è fiamma, è arcobaleno. Francesco d'Assisi e Giordano Bruno. Etienne de la Boétie e Alain Lagy e Filippo Neri, Rosvita e Simone Weil e Totò. Se ne infischia, fa, agisce, danza, custodisce il deposito, fa vibrare la fiamma. 14. La verità che è sorellina della speranza, che è speranza, lo diceva già Peggy. 15. Il teatro come antro della polis, nella polis. Il luogo e la comunità e il coro, noi ce li dobbiamo letteralmente inventare, come gli antichi greci. È un'opera alchemica, una scommessa che dura una vita, una creazione immane, un'impresa di tutti. Nell'epoca dei grandi media virtuali immateriali, il teatro è il luogo della materia sacra, di quella povera carne di cui sopra, di quella mancanza. 16. Il teatro come tradizione, ovvero come seduta spiritica, da Aristofane a Jarry, da Ruzzante a Brecht. Di tutti quei morti noi ci nutriamo, pane e vino indispensabili. E tutti quei morti, come vampiri, si nutrono del nostro sangue per rimanere vivi tra i viventi, per marcare ancora la loro presenza nella catena ininterrotta dei secoli. Non il luogo della messa in scena, ma il luogo della messa in vita. 17. Datemi retta, non credete ai nostalgici. Non è mai esistita l'epoca bella, il a quei tempi sì, oggi proprio no. Gira e rigira, gli uomini sono sempre gli stessi, conformi e conformisti, violenti e sanguinari. Ogni epoca partorisce i suoi tiranni e i suoi ribelli. Ogni epoca è incinta, incinta di abituati e di ribelli. E parlo soprattutto a voi, giovani. Non abituatevi. Non fatevi incantare dai discorsi d'antan. Sono una truffa i discorsi d'antan. I combattivi anni 70, i meravigliosi anni 80. Discorsi truffa, fuffa, bestemmia, buoni per vendere, per guadagnarci. Non sono che inganno. Ah, quando c'era Pasolini. Nostalgia all'ingrosso, una diavoleria, un alibi per starsene a poltrire. Ogni epoca è buona per rivoltarsi, credetemi. Ogni epoca è buona per accendere la miccia. 18. Il teatro come audacia del farsi luogo nell'epoca dei non luoghi. Parlo agli audaci qui e a nessun altro. Dove comincia il farsi luogo? Dal rischio più grande, dal pericolo antico. Io e te. I miei occhi nei tuoi. Nessun servo, nessun padrone o padrino. Io e te, inter pares. Se lo vuoi correre questo pericolo, bene. Se no, non so che dirti. Non so che dire alle nuove generazioni. Non sono un sociologo. Nel farsi luogo non ci sono né fama né ricchezze, né gloriose dannunziane avventure. Se sono queste che desideri, se è questo nulla che insegui, smettila di leggermi. Non è a te che parlo. Vai a cercarti il mercato e i suoi scandali prefabbricati. Se invece queste prime povere paginette qualcosa dentro ti hanno smosso, in fondo siamo solo al paragrafo 18, è a te come te che parlo. 19. Da dove cominciare? Comincia, se puoi, dall'affinare la pratica dell'ascolto, l'arte dell'ascolto, la più difficile, la più all'avanguardia di tutte, che quelle cosiddette all'avanguardia gli fanno un baffo a quest'arte così stupefacente e sacra, arte della comunità che la cementa, della comunità come reciproco munus, dono, arte del dono. Io e te, i miei occhi nei tuoi, in ascolto della tua voce. L'avventura più grande e rischiosa. Stura le orecchie, asinello. 20. L'altro che mi si para davanti, l'ingombro, la sfinge. Può mentirmi? Può tradirmi? Certo che può. Posso tradirlo? Certo che posso. Ma se voglio salvezza, salvezza e non un orgasmo tra i tanti. Non ho scampo, da lì devo passare, da quella stretta porticina, disarmato, e abbracciarlo in silenzio, il mio assassino. E per far questo ci vuole coraggio. È un luogo comune, quello di cui parlo? Certo, è il luogo in comune, il luogo del coraggio per eccellenza, che trasforma gli assassini in fratelli. 21. Il movimento fondamentale del farsi luogo è il dialogo. A questo serve l'ago per cucire, per tessere il dialogo. Il movimento fondamentale è il rivolgersi, come scrive Martin Buber. Occorre pensare allo spettatore come a colui al quale ci rivolgiamo. Tanti spettacoli non sono rivolti allo spettatore, perché già in precedenza non si è dato un vero rivolgersi tra coloro che lo spettacolo lo hanno creato. Se non c'è un vero dialogo con la platea, spesso è perché già prima non è esistito dialogo tra coloro che calcano la scena. Il dialogo, fondamento della filosofia, ovvero la filosofia amore per la sapienza, e fondamento anche del teatro, ovvero visione. Se bastasse l'etimologia delle parole, presa così, sine glossa. 22. E d'altronde, viviamo nella società dello spettacolo, dove le parole sono quotidianamente violentate, usate e abusate, dove la lingua è svilita, e da oltre mezzo secolo il teatro ha sempre cercato di essere altro da questa obbligatoria società dello spettacolo. Ha usato le sue finzioni come sassolini per inceppare la macchina, come lampi per rischiarare il buio. Lo ha fatto in modi, con tecniche, con poetiche diverse, e a me qui non interessa distinguere le une e le altre, ma lo ha fatto e lo fa ancora. E si rivolge anche quando apparentemente provoca e divide. 23. La concezione dominante, non quella sbandierata, ma quella da tanti intimamente vissuta, subita, per cui il rivolgersi verso l'altro sarebbe un cedimento sentimentale e inefficace e al massimo un'utile ipocrisia e in ogni caso è roba da donnicciole e residuo di un cristianesimo morto e in ogni caso non corrisponderebbe alla necessaria densità della vita. Questo modo di pensare, che si suppone vincente, è l'errore più grande. 24. Il teatro come luogo del massimo rispetto, rispetto per la dignità regale, aristocratica, sfalenante dell'altro. Rispetto non è la parola giusta, lo so. Evoca un che di giuridico che sembra ingabbiare, come la parola tolleranza. 25. Eppure la parola rispetto, se liberata da quella patina, da quel residuo di deferenza o di ossequio che talvolta ce la fa suonare falsa, ha in sé l'essenziale. Rispetto deriva da respicere, ovvero guardare. L'essenziale, io e te, i miei occhi nei tuoi.